Senta. Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Tu sei bravo. Ma che bravo. Sei bravo. No. Tu sei molto, molto bravo. A questo punto la notizia è ufficiale, la frittata è fatta. Allegramente col consenso generale la frittata è fatta. Tra guastatori e giudici d'assalto, tra sceneggiate e giudici d'ascolto, praticamente la frittata è fatta. Ogni compromesso è ovviamente contrario al riconoscimento di diritti, quindi noi siamo in grado in questo momento di mantenere l'impianto della legge e di trovare nuovi numeri in aula per chiedere chi ci sta. I colleghi provano a consolare Cirinna, gli avversari brindano prosecco alla buvette. Scusate, ma non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. No, io mi chiedo dal cielo come vedranno queste cose, ma sono veramente dei poveri uomini. Nonostante il presidente la frittata è fatta, e tra indagini ed accertamenti e ricchi premi ai partecipanti, allegramente la frittata è fatta. E noi abbiamo sempre combattuto questo che chiamano canguro, perché è una forma autoritaria. Allora, capisce che l'incongruenza di votare dei diritti civili in modo autoritario. Perché ieri pomeriggio, certo che poi alla Camera le battute si moltiplicavano, no? Chi aveva proposto tanti emendamenti che era la Lega, che era Calderoli, che se non vado errato è bergamasco, no? Ha detto riguardo al canguro, salta bene chi salta ultimo. Dunque c'è da divertirsi, figlioli. Vabbè, beh, Don Livio Fanzaga è allegro, lui salta anche lui, forse come un canguro, è felice come una Pasqua, ecco, se mi permette l'accostamento. Il direttore di Radio Maria è felice come una Pasqua, perché questa legge sta naufragando e quindi, o comunque ha dei brutti, sta passando dei brutti momenti la legge, e quindi Don Livio esulta. Avete sentito come rideva, come era allegro, contento, ridanciano, eh? Vedete che non c'è sempre il diavolo, no? Che ci mette lo zampino. Magari. Vabbè. Ragazzi, io l'ho detto un mese fa. Non è che avevo la sfera di cristallo per vedere che sarebbe successo questo casino. Ma ho detto: questa volta la legge o passa o non ne voglio più sentire parlare per l'eternità. Per l'eternità non se ne può più, adesso è tutto un casino. Hanno chiamato il time out, Renzi, come nel basket, ha chiamato il time out. La legge rimane sospesa per una settimana per cercare di trattare, volano le accuse. La Cirinna oggi, la senatrice Cirinna, sul Corriere della Sera, si attacca al Movimento 5 Stelle, dice hanno fatto un dietrofront, ma non provano vergogna, eccetera. Ma poi dice, aggiunge una cosa, è una porcata dei renziani. Che sei studente? Dei renziani delusi dall'ultimo rimpasto di governo. Qualcuno magari che sperava in uno strapuntino, una poltrona, un sottosegretariato, un viceministro, ministero, un ministero addirittura. E quindi sono delusi e vogliono impallinare Renzi, e lo fanno facendo queste porcate sulla legge Cirinna. Capito che bel cliva nella politica, eh? Si sta bene a fare il politico. Poi c'è questa cosa dei nomi della RAI, ragazzi, ma io dico, ma vabbè, a quanti italiani su 100 interessa questa storia dei nomi, delle nomine, dei direttori in RAI? A 2, a 3, a quelli che fanno i giornalisti. Sicuramente interessa a Vincino. Vincino è interessato, signor Vincenzo, buongiorno. Buongiorno. Ah, tu sei interessatissimo, cioè... Assolutamente sì, non è che sono felice per Daria al 3, assolutamente. Daria al 3, al canale 3, a Rai 3. Ma sei felice per cose che la stroncano tutti oggi, Miss Flop, Miss 3%. Cioè l'ultimo share di non l'ho letto, guarda, no. Ma come no? Guarda qua, il Fatto Quotidiano, le invasioni barbariche, le nomine barbariche, libero, sai, giornale Libero che ti ha intervistato, te lo ricordi? Sì. Mi ricordo, era Libero, no? Mi ricordo l'intervistatore che era Alessandro Milan. Sì, vabbè. Il quotidiano era Libero. L'hai rimosso, Libero. L'invasione barbare con quella sigla meravigliosa di Gipi d'apertura era stupenda. Il marito Luca Sofri che ha chiamato Capo Renzi una volta. Capo, quando è venuto a fare un'intervista all'invasione, è andato lì. Capo gli ha detto. Come dire? Ma che c'entra il marito? Perché quella è donna, noi prendiamo il marito, vedi che sei maschilista pure maschilista. Assolutamente. Allora fammi convocare, caro Vincino, un maschilista doc, il direttore di oggi, Umberto Brindani. No, non è vero che è maschilista. Direttore, come va? Buongiorno. Sei sessista addirittura. Ma tu sei interessato a queste nomine della Rai? Perché qui sembra che non si debba parlare d'altro. Tantissimo, sono interessatissimo. Poi naturalmente sul mio giornale non scriverò una riga, perché come dici tu è una cosa che interessa solo a noi. Ma dai, su. Per carità, ma poi l'unico nome che suscita un pochino di così di polemiche è proprio questo, di Daria Bignardi, no? Polemiche. Sai, è un po' come convocare in nazionale Peruzzetti della Ternana. Non è male. Peruzzetti, me lo segno per il mio Milan. Potrebbe essere, magari è un per comprare Peruzzetti della Ternana. Lo segnaliamo a Galliani, magari. Vabbè. Quindi proprio. Ti sembra una nomina un po' buttata lì, ecco. Beh, è una nomina sorprendente come quella di Gabriele Romagnoli a Rai Sport, no? Cioè, sono due sfide grosse, due scommesse, insomma, due personaggi totalmente strani al mondo Rai. Gabriele è anche estraneo in gran parte al mondo della televisione. Gabriele è bravissimo, però. Assolutamente, però è bravissimo come scrittore, come giornalista. Poi sai, bisognerà vedere come verranno accolti dal corpaccione, dal cosiddetto corpaccione Rai. Che io non conosco, ma tutti lo descrivono come un Moloch. Com'è che lo accolgono, Vincino? Quelli hanno bisogno, quelli del corpaccione Rai, hanno bisogno di frustate, assolutamente, guarda, quei 10.000 scansapatiche che stanno là a Sassa Rubra. Però scusa una cosa, della Ternana, cioè, come se c'è un'esperta di televisione è Daria Bignardi, fa televisione dal 1990, dall'epoca di Italia. Sì. Allora, scusa, basta, la deve difendere. Dario, mettiti l'elmetto e difendi Daria. Italiani, che cavolo. Difendi Daria Bignardi con l'elmetto, l'alabarda, la scimitarra e le frustate, per quelli scansa fatica. Salute. Mangia pane a tradimento. Salutiamo tutti gli amici della Rai, un grosso abbraccio, colleghi, tenete duro Vincino, adesso gli amici del corpaccione, lo mettiamo anche un po' di garrota a Vincino prima di... Allora, va bene. In realtà poi c'è da parlare di queste unioni civili, non possiamo esimerci anche oggi, cari ascoltatori. Avete sentito, direttore, come Don Livio Fanzaga, come contento il direttore di Radio Maria? Sai che ha anche chiesto scusa formalmente alla Cirinnà. Davvero? Per le sue frasi che lui ha detto erano state mal interpretate, no? Era detto che aveva augurato la morte a Sacerdina. e ieri ha chiesto scusa, insomma, quindi insomma, forse perché è contento, perché questa legge alla fine non conterrà questa tanto vituperata special adoption, che però devo dire una cosa, adesso non so come la pensi tu, come la pensa Vincino, ma insomma noi ci stiamo avvitando da settimane su una questione che diciamo comunque uno la possa pensare riguarda riguarda forse qualche centinaio di persone in Italia. Sì, forse un po' di più, però effettivamente ecco, anche a me una cosa ha dato fastidio. Cioè, con tutti i guai che abbiamo. No, una cosa un po' da fastidio, cioè vedere quelle che vengono definiti gli attivisti che vanno al Senato, vanno alla Camera, discutono. La Taverna, sentite qua, Paola Taverna, poi Vincino ti chiedo cosa ne pensi della mossa politica del Movimento 5 Stelle. Pensaci bene, pensa fino al 500, poi te lo chiedo tra un attimo. Senti, la Paola Taverna assediata da alcuni rappresentanti del movimento gay. Votiamo con il voto palese, votiamo con il voto palese, così saprete chi vi dice una cosa e la fa e chi vi dice una cosa e non la fa. Non posso, io un metodo antidemocratico non lo sostengo. E vabbè, insomma, a discutere, no? Adesso dove si girano, dove si muovono? Vanno al ristorante, vanno a casa, aprono il frigorifero, c'è, non so, un gay o una lesbica che esce. Perché non hai votato così? C'è, basta, boh, lasciateli, basta. Insomma, possono. Vabbè, comunque, Vincino, il Movimento 5 Stelle ha sbagliato qualcosa politicamente? No, una mossa geniale questa qua, guarda, assolutamente. C'era un complotto per farli vincere e acchiappare questa legge e loro l'hanno evitato, questo altro complotto qua, assolutamente. Non... Bravissimi. Colgo un filino di ironia. Ma quale filino di ironia? Tu cogli ironia, come dire, dappertutto. Che ci vogliamo fare? Assolutamente. Allora hanno detto votiamo adesso, votiamo, discutiamo gli emendamenti uno per uno e votiamo. Che problema c'è? Il terrore di quelli del PD. Ho capito, se hanno fatto una legge che il loro stesso partito in parte non gradisce, non è che è colpa degli altri. No, vabbè, poi là c'hanno un imbecille a capogruppo che è quello il... inadatto a capogruppo, è cioè Zanda il capogruppo, devo dirlo, sì, esattamente, ecco. Uno dice ridateci Anna Finocchiaro, che lei sì che era brava, sapeva, riusciva, teneva il gruppo, faceva gli accordi, la politica non è una cosa per signorine, esattamente, cioè, come vedi là, il gruppo più fedele è stato quello di Ala, Ala, quindi proprio non sbarrano un voto, direttore. Il qua bisogna capire chi sono Ala. Verdini, tutti precisi, schierati, perfetti. Guarda, Renzi non ha mai avuto dei senatori così. Verdini, Verdini, ma. Vabbè, a questo punto chiedo il pronostico sempre. Cosa devo fare? Lo chiedo sempre e lo chiedo ancora. Dai, direttore, che succederà a questo pronostico? A questa legge? Così ce la scaviamo via, basta. Ma finirà che stralceranno queste benedette adozioni, stepchild adoption, o poi come faceva? Sì. Siamo molto a ridere ieri, mi sembra, l'articolo di Fabrizio Roncone sul Corriere che elencava i circa 15 modi in cui i deputati... Se vuoi, tra un po' te li faccio sentire. Finirà come, io spero perlomeno, mi auguro che finisca come deve finire, e cioè una questione che comunque sia è già anche regolamentata dalla diciamo quella che si chiama la giurisdizione, cioè le sentenze. Non c'è bisogno in questa legge di metterci questa appendice che secondo alcuni aprirebbe le porte o non le chiuderebbe abbastanza, l'utero in affitto e quant'altro. Togliete questa stepchild adoption e approvate questa legge che dà i diritti devono essere dati alle coppie di fatto, alle coppie omosessuali. Vince Alfano come al solito. Devo salutare Simone da Basso Vicentino, non lo so, Simone comunque ci ha. E poi saluto il nostro maestro di tennis da Hong Kong, Mauro Fieni, sempre ci segue da Hong Kong in diretta. Vincino ti ascolta da Hong Kong in questo momento. Hong Kong, come dall'Australia tutti i giorni. Ieri straordinario l'ascoltatore dall'Australia ha detto: qui è pieno di canguri, venite qui, qui è pieno di canguri. Ma eccolo qui, a grande richiesta, caro Brindani, caro Vincino, torna le pronunce, dai, diteci qual è la peggiore. Sentite qua, la step child adoption. Step child adoption. Step child association. Adoption. Step child adoption. Questa schifezza che si chiama stepchild adoption. La spregevole pratica dell'utero in locazione. Negli affemminati, negli omosessuali, la donna non si vestirà vabbè, da uomo. Vabbè, c'è questo. E poi c'è anche il mitologico. Vabbè, l'utero in locazione, l'abbiamo già detto. È una cosa che veramente è nell'iperuranio, l'utero in locazione. Credo il senatore Cesa, Lorenzo Cesa. Tanto che qualcuno ha detto: ma nell'utero in locazione si paga la cedolare secca? Oppure no? Però il migliore resta sempre lui, l'adpition. No alla stepchild ad pishon, che rischia ad option. Ragazzi, cioè, capite che comunque andrà a finire. Ci ha regalato uno spettacolo clamoroso, Brindani. Cioè, e d'altra parte avevamo la capa del cerimoniale di Palazzo Chigi che non sta di impese, no? Esatto. Cioè, è tutto gratis, Vincino, tutto gratis. Uno va al Senato, è tutto gratis. Tu confermi, tu che ci vai spesso? Confermo assolutamente. Oddio. Noioso, vabbè, sì, abbiamo preso il meglio. È come un film dove prendi un trailer. Ma stai 6 ore a aspettare altre cose così, ecco. Vabbè, salutiamo anche dalla Fiat di Cassino Carlo, che invece di lavorare giustamente, no scherzo, ci manda un messaggio di saluto. Lo salutiamo calorosamente, Brindani. Ma lo sai che Vincino quasi si voleva buttare di sotto una volta la camera, lo stavano arrestando? Perché? Cosa mi ha combinato? Guarda, adesso dobbiamo approfondire. Aspetta, il traffico. Dobbiamo approfondire. Già è stato arrestato 2 volte, come ha raccontato in una magistrale intervista a Libero. 2 volte al gabbio si è fatto Vincino, ma tra poco ci dirà questo. L'unica cosa che è bella di questa trasmissione è il traffico. Mandalo, vai. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio. Progettofuoco.it vi presenta. Cosa ha detto la taverna? È soltanto mettere le mani avanti. Non siamo capaci di gestire Roma dopo averla presa? È colpa del PD. Se invece ci riuscissero, oh, come siamo bravi! Passerà il DDL Cirinna, stralciato dell'articolo 5 sulla stepchild adoption, e sarà la vittoria, stravittoria di Renzi. Ma la legge sull'anticorruzione che fine ha fatto? Ah, ecco, hanno corrotto chi l'aveva proposta, probabilmente. Milan de Milan, bisogna di calmarone che le dura vega il mol. Forza Milan, aprite il Parlamento, qui c'è bisogno di caffè. Vabbè, i nostri ascoltatori, a proposito di quello che parlava il milanese, Brindani, mai visto in milanese questa storia della sanità? Hanno trovato anche all'arrestato Rizzi 1600 euro nel freezer. Nel congelatore li teneva così al fresco. Beh, siamo sempre, siamo le solite: dove c'è sanità c'è corruzione. È molto semplice, mi sembra l'equazione, perché girano molti soldi in quell'area. E poi girano i politici. Se i politici nominano tutti i dirigenti, tutte le ASL, tutte le cose, di conseguenza. Quando i politici nominavano i presidenti delle banche. Sì. Ma poi soprattutto le cose che mi hanno interessato, sentite questa, il Cardinal Bagnasco, no? Avete presente il Cardinal Bagnasco? Sì. Sai, caro Vincino, che il Cardinal Bagnasco ha una pensione da ex cappellano militare, 4.000 euro al mese. No, vabbè, te lo dico. Ha fatto il cappellano militare. Ha fatto il cappellano militare. Che devi fare? È il cappellano militare. C'è una petizione che per cercare. Impossibile. La tua amante la può passare. No. Non ha amanti. Non credo. Però qua abbiamo un direttore che fa tanti scoop. Brindani ha amanti, Cardinal Magnasco. Non credo che possa avere la pensione di reversibilità. No, la domanda era un'altra, non se ha la pensione di reversibilità. No, si potrà dare, diciamo. No, ma tu sei direttore di Oggi, le saprai queste cose, no? Tenderei a escluderlo, diciamo. Hai capito, Vincino, tende a escluderla. Non lo so. E comunque prende meno della passionaria trentina. La Eva Klotz, che sarà ai nostri microfoni alle 8:15, alle 8:20. Un botto solo se prende quasi un milione. No, la dinamitarda, basta. Al limite c'è stato qualche problema col papà. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra lei? Il papà metteva le bombe sotto i tralicci. No? Ma erano altri tempi. Ma gliela lasciate in eredità qualche cosa. No. Non ha lasciato nulla. Però dicevamo, allora, Vincino, che è stato due volte arrestato, sì. L'abbiamo raccontato tante volte, poi dice che una volta, scusa, delle due, una volta è una volta dentro il militare, magari militare. Ti poteva salvare il cappellano militare Bagnasco. No, ma ha salvato il sindaco di Pavia Elio Veltri, sì, siccome sì. Raccontato a Libero, dicendo così, con un argomento strettamente tecnico, ma rilasciatelo, è un povero cretino, questo ha detto. Aveva ragione, peraltro, ma stava per essere arrestato perché disegnava alla camera. E sai che direttore è vietatissimo prendere appunti, scrivere. E quindi gli volevano sequestrare il taccuino. E Vincino ha minacciato: "Mi butto di sotto." Mi sono messo a cavalcione sulla tribuna. Esatto. Vabbè. Ti giuro che questo non lo sapevo. Non si possono prendere a punto. Vedi? Esattamente. Ne ho fatto pure un libro, Montecitorio e altre storie. Farò piacere di mandarglielo, direttore. Questo non lo sapevo. Non sapevo neanch'io, direttore. Non si possono prendere appunti. Non si può scrivere nulla. C'è proprio un cartellino scritto. Medievale. Fare. Ma erano gli anni 60, 70, 80, come dire. Cioè si non possono fare internet, le fotografie. Non si possono nemmeno fare le fotografie. Infatti le foto fatte da sopra sono tutte illegali perché c'è il commesso distratto. O complice praticamente. Tutto questo per difendere i nostri parlamentari. Beh, chiaro, cioè pizzichi magari. Quando abbiamo beccato quelli che sull'iPad giocavano al poker o altro, erano foto illegali. Forse hai fatto un reato, direttore, non lo sai neanche. Così arrestano anche me, come esatto. Così arrestano tutti. Vabbè, però ci sono come al solito da mettere le palette del voto da 0 a 10, perché Renzi nel suo peregrinare un po' in giro per il mondo, quando è in Francia parla francese, quando è in Inghilterra o in America parla americano, inglese, e quando è in Argentina parla spagnolo. Tra l'altro, sbagliando, attribuito a un poeta, a uno scrittore, una poesia che non è in realtà sua, ma vabbè, Renzi. Vorrei citare alcuni versi vorrei leggere alcuni versi di Borges quando nel poema L'amistad dice: "No puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida, ni tengo respuestas para tus dudas o temores, pero puedo escucharte. Compartirlo contigo." Che c'è, Vincino? Non perché? Puedo cambiare. Secondo me è una buona pronuncia. Io non... Ma cosa c'è? Cosa c'è? Perché ridi? Io non so lo spagnolo, però secondo me era... L'italiano è bravissimo lui, ma perché deve sperimentare spagnolo, francese? No, è peggio che con l'inglese, nello spagnolo e nel francese. Ma non è vero, non credo. Io non so lo spagnolo, anzi facciamo un appello pubblico al 349-238-6666 se qualcuno sa bene lo spagnolo. Come era la pronuncia di Renzi? La pronuncia era da tre addirittura. Ma perché tu sai lo spagnolo, Umberto? Un po' sì, io da tre lo proprio. Spagnolo l'ho imparato. No, leggeva semplicemente, quindi non c'è la minima